Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Un sasso viene lanciato contro un'auto e sfonda il parabrezza. Una donna di 62 anni muore per arresto cardiaco. È successo ieri sera nel Milanese. Città di nuovo in difficoltà per gli scioperi, ma non tutte. A Milano infatti in realtà mezzi pubblici regolari, a Roma fermi bus, con un'adesione secondo i sindacati di base al 95%, cancellati molti voli. Dopo l'arresto di Roberto Spada, Ostia si prepara al corteo di domani. La lotta alla criminalità unisce tutti, twitta la sindaca Virginia Raggi. Intanto il giornalista aggredito racconta a Radio 24: li vedevo i cittadini di Ostia sui balconi, sembravano scene tratte da un film di Sciascia. Alla nostra richiesta di aiuto loro ci dicevano: ti sta bene, non tornare più a Piazza Gasparri, è un mondo parallelo, sommerso e spaventoso. Ora abbiamo una data e perfino un orario. La Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea venerdì 29 marzo 2019 alle ore 23. La premier conservatrice Theresa May mette nero su bianco giorno e ora della Brexit. Terremoto nel centro Italia, entro la fine dell'anno, salvo imprevisti, contiamo di consegnare l'80% delle casette, assicura il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Ancora 2,3 milioni di tonnellate di macerie in strada. 24esima edizione di Orienta Giovani. Confindustria fa incontrare imprenditori e studenti che devono scegliere il percorso dopo le superiori. Sullo sfondo una disoccupazione giovanile che sfiora il 35% e dall'altra parte un quinto delle imprese che non riesce a trovare i profili professionali di cui ha bisogno. E poi il calcio, stasera a Stoccolma la prima delle due sfide con la Svezia per la nostra qualificazione mondiale 2018. Ventura si dice sicuro, niente paura, ce la faremo. E queste sono le notizie principali di questa mattina. Vi ricordo tutti i mezzi per parlare con noi: effetto giorno @radio24.it, il nostro account Twitter, la nostra pagina Facebook. Come avrete capito, oggi non c'è Simone Spezia, ci sono io, Maria Piera Ceci, al microfono. Spezia che tornerà naturalmente qui puntuale alle 13 lunedì. In primo piano la cronaca con la vicenda, l'avete sentita nei titoli, assurda, accaduta ieri sera alle porte di Milano, una vicenda che riporta tra l'altro alla mente quella di ormai 21 anni fa, quando la trentenne Maria Letizia Berdini morì a bordo della sua auto colpita da un sasso lanciato da un cavalcavia sulla Torino-Piacenza. È stata messa sotto sequestro l'auto che ieri sera nel Milanese è stata colpita da un sasso lanciato da ignoti. A bordo 5 persone, delle quali 4 sono rimaste illese, mentre una donna, Nilde Caldarini, di 62 anni, che era seduta sul sedile anteriore, è morta per lo spavento. Sul mezzo verranno ora fatti tutti i rilievi scientifici necessari, mentre sul caso stanno indagando i carabinieri del comando di Cassano d'Adda, in attesa che venga disposta l'autopsia sul corpo della vittima. Il grave episodio è avvenuto intorno alle 23:30 di ieri sera, quando i 5, che facevano parte di un gruppo di preghiera, stavano rientrando a casa da Pontirolo Nuovo in provincia di Bergamo. Sulla strada provinciale 121, che da Cernusco sul Naviglio va verso Carugate, nel Milanese, la vettura è stata colpita da una grossa pietra lanciata da sconosciuti da un terrapieno alto circa 5 metri, all'altezza di Cassano d'Adda. Il masso, che pesava più di un chilo, ha sfondato il parabrezza dell'auto senza colpire miracolosamente nessuno, ma la donna, a causa del forte shock, ha avuto un malore ed è morta pochi minuti dopo per arresto cardiaco. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora gli scioperi di oggi indetti dai sindacati di base. Circolazione regolare a Milano, le quattro linee della metropolitana funzionano così come i mezzi di superficie. La prima parte dello sciopero si chiude alle 15 e riprende alle 18 fino a fine servizio. Situazione molto più difficile nella capitale, ferme tutte le linee della metro, in superficie è rientrato in deposito il 95% dei mezzi, adesione altissima, superiore al 90% anche tra gli operai, fa sapere il sindacato. Il comune, così come a Milano, ha deciso di aprire le aree a traffico limitato, ma ci sono code ovunque. La circolazione dovrebbe tornare regolare alle 17 fino alle ore 20. Il Codacons parla di 13° sciopero dei trasporti pubblici a Roma da inizio anno e chiede al sindacato di trovare forme alternative di protesta. Alta adesione anche a Venezia, secondo l'USB, soprattutto sul fronte dei vaporetti. Disagi anche a Torino, Firenze, Napoli e Palermo. Per quanto riguarda le ferrovie, le frecce circolano regolarmente. Disagi sui treni regionali. Garantiti servizi essenziali nelle fasce orarie più frequentate dai pendolari. orari, ovvero 6, 9 e 18, 21. Voli cancellati negli aeroporti di Firenze e Pisa, 4 voli e 2 treni regionali cancellati in Puglia. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parleremo ancora di questo tema fra pochissimo. Nel secondo blocco di Effetto Giorno, ai nostri microfoni avremo il presidente dell'Autorità Garante per gli Scioperi, Giuseppe Santoro. Ed ora torniamo invece su Ostia, Ostia che si prepara al secondo turno del voto, quello del 19 novembre, in un clima sempre più incandescente. Dopo l'arresto di Roberto Spada per l'aggressione al reporter, domani corteo per riaffermare la legalità in un territorio dominato da politiche mafiose. È attesa per oggi la convalida del fermo di Roberto Spada. Il responsabile dell'aggressione ai danni di una troupe Rai ieri pomeriggio è stato prelevato nella sua abitazione dai carabinieri che lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli. Fratello del capoclan della famiglia di origine Sinti, è accusato di lesioni e violenza privata con l'aggravante del metodo mafioso. Il suo fermo dimostra che in Italia non esistono zone franche, commenta il ministro dell'Interno Minniti. Per sottolineare la presenza dello Stato a Ostia e scongiurare minacce o pressioni da parte dei clan, il capo della polizia, Gabrielli, ha disposto controlli straordinari nei seggi in occasione del ballottaggio di domenica 19 per il rinnovo del 10° municipio di Roma, commissariato per infiltrazioni mafiose. La sindaca Raggi nel frattempo invita tutti a partecipare al corteo apartitico contro la violenza e le mafie che domani pomeriggio sfilerà nelle vie di Ostia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Daniele Piervincenzi, il giornalista di Nemo aggredito da Roberto Spada a Ostia martedì, è intervenuto questa mattina a 24 Mattino, intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino. Sentiamo le sue parole. Quello là di Nuova Ostia, nello specifico di Piazza Gasparri, è un volto molto particolare. Io ho raccontato la Sicilia, la Calabria, la Campania, e lì, non lo so, ti dirò una cosa un po' scomposta, ma lì in qualche modo te lo aspetti, passami questa cosa, perché cioè, vabbè, esiste. Invece siamo a 20 minuti da Roma, superata la Pineta e il Casal Palocco, che sembra i Parioli, ci sta Nuova Ostia, e Nuova Ostia è un mondo a parte. Com'è questo mondo? Scuro. Dacci tre lampi per raccontarlo. Sono tutte le sale cinesche, tutti gli esercizi commerciali sono tutte chiuse. L'inverno a Ostia è completamente, quella parte di Ostia è completamente abbandonata. Perché? Ma è viva, cioè ci sono gli abitanti e sembrano degli spettri che si nascondono nelle loro case. Dopo che ci hanno picchiato, io li vedevo lì sui balconi che si interavano, sai, sembravano le scene dei film o di un libro di Giorno della Civetta, con le verande, le tapparelle socchiuse che venivano tirate giù. E noi che chiedevamo aiuto e quelli ci dicevano ti sta bene, non tornare più a Piazza Gasparri. Cioè un mondo parallelo, sommerso ma spaventoso. Per quanto mi riguarda spaventoso lo dico da romano. E in questo clima, fra due settimane dunque il secondo turno ad Ostia, che presenta una strana convergenza, il dialogo fra Movimento 5 Stelle e MDP. La sinistra ha infatti dato indicazione di votare Movimento 5 Stelle nel ballottaggio contro il centrodestra. L'analisi di Daniele Biacchessi. L'avvicinamento tra 5 Stelle e MDP pare più una prova di dialogo che una vera e propria alleanza. Il primo segnale giunge dall'indicazione della sinistra di votare il prossimo 19 novembre 5 Stelle nel ballottaggio di Ostia contro il centrodestra. Il secondo segnale arriva tra 10 giorni, quando 5 Stelle dovrebbe appoggiare la mozione di MDP che chiede di abolire il Jobs Act e reintrodurre l'articolo 18. Ma il vero obiettivo restano le elezioni politiche nazionali di primavera, dove MDP sarebbe pronto a fare da stampella ad un eventuale governo 5 Stelle se passa la soglia di sbarramento. Le manovre in atto saranno comunque determinate dalla roadmap del presidente del Senato Pietro Grasso, impegnato in queste ore a riunire la sinistra frammentata con una lista alternativa al PD e in discontinuità con la leadership di Matteo Renzi. Sinistra alle prese dunque con nuove alleanze, lo sentivamo, occhi puntati sul presidente del Senato Grasso, in diretta da Montecitorio, Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, Piera, scoppia il caso di Pietro Grasso, il presidente del Senato spiega che è uscito dal PD perché non c'è più il PD, parole che ricompattano però i Dem per Franceschini è dispiaciuto dei giudizi di Grasso, ma comunque giudica le parole assolutamente non condivisibili. Anche Maurizio Martina controbatte: rispettiamo Grasso, ma chiediamo altrettanto rispetto per la comunità del PD fatta da migliaia di uomini e donne che ogni giorno fanno politica con passione. Intanto Matteo Renzi cerca di costruire una coalizione di centro-sinistra. Il segretario PD rivela di aver sentito Andrea Orlando della minoranza, che chiede una linea d'apertura. Renzi però chiude all'ipotesi di un accordo tecnico a sinistra, perché gli apparentamenti nei collegi sono impossibili con il Rosatellum, che non permette la desistenza. Intanto Renzi stringe però l'accordo all'interno del partito con Dario Franceschini. Nel centrodestra invece colazione a Palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni per trovare un nome comune da candidare nel Lazio. A te, Piera. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E torniamo sullo scontro Banca Italia-Consob. Ve l'abbiamo raccontato nella giornata di ieri, stamattina nei notiziari. Uno scontro consumatosi ieri a distanza in commissione d'inchiesta sulle banche. Oggi emergono nuovi particolari e allora siamo in diretta con il collega sempre puntuale del Sole 24 Ore, Marco Ferrando. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno Piera, buongiorno a te. Sì, come dici tu, effettivamente il giorno dopo è un giorno di pausa, ma è solo apparente. Quello che risulta è che sia in Consob che in Banca d'Italia si stia lavorando sulle carte da presentare nei prossimi giorni, nel senso che sicuramente non è finita con ieri, con lo scontro a distanza tra Apponi di Consob e Barbagallo di Banca d'Italia. Nei prossimi giorni la commissione d'inchiesta parlamentare aprirà il capitolo Monte dei Paschi, e questo basta a immaginare quanto non è rassicurante. Certo, non è rassicurante, vicenda assai tormentata, non meno di quella delle Venete, con perdite elevatissime soprattutto per gli azionisti coinvolti in aumenti di capitale poi bruciati a ripetizione dalla banca. Quindi tutto lascia immaginare che una situazione analoga a quella di ieri si ripeterà sul Monte dei Paschi. E poi c'è il tema delle riforme, nel senso che c'è una cosa che emerge, che le regole attuali non funzionano, bisognerebbe guardare avanti, anche se al momento siamo di fatto all'anno zero. Grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore. È stato firmato il decreto per la strategia energetica nazionale, un piano che prevede nel complesso 175 miliardi dedicati alla crescita sostenibile. Hanno sottoscritto il provvedimento i ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente. La strategia energetica nazionale prevede, lo dicevamo, un totale di investimenti di 175 miliardi al 2030, divisi in reti, infrastrutture, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, ha detto e ha spiegato il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Ora abbiamo una data, perfino un orario preciso. La Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea venerdì 29 marzo 2019 alle ore 23. È perentoria la premier conservatrice Theresa May, che mette nero su bianco giorno e ora della Brexit con un emendamento alla Withdrawal Bill, la legge quadro sul divorzio dall'UE. E siamo al viaggio di Trump in Asia. Il presidente americano è oggi in Vietnam. È stato un discorso di sacro egoismo, quello di Donald Trump al vertice APEC che si svolge in Vietnam. Il presidente ha usato più volte il nuovo mantra, irritante per i cinesi, di una libera e aperta regione Indo-Pacific, anche se l'India non fa parte dell'APEC, ma non ha articolato concretamente alcuna visione di leadership americana. Ha piuttosto ripetuto che d'ora in poi sarà seguito il principio di America First. Niente accordi multilaterali come la TPP, ma intese bilaterali non sbilanciate e tolleranza zero per pratiche commerciali scorrette, di cui ha citato vari esempi che di solito vengono applicati alla Cina. Ma ancora una volta Trump ha detto di biasimare per questo le precedenti amministrazioni americane e non chi ha perseguito i propri interessi. Ne emerge un'America che non sarà più generosa, ma scrupolosamente attenta a un do ut des. È stato poi annunciato che a margine del vertice non ci sarà alcun incontro incontro formale tra Trump e il presidente russo Putin. In effetti, il momento appare troppo delicato, visto che le indagini su Russiagate hanno appena fatto irruzione nella cerchia più ristretta del presidente, con l'interrogatorio del suo consigliere politico Miller da parte del procuratore speciale che indaga sulle interferenze russe nella campagna elettorale. Chiaro che Trump abbia fretta di tornare in patria, ma dovrà passare altri 3 lunghi giorni in Asia per altri vertici e incontri, dal Vietnam alle Filippine. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Tokyo. Svolta nell'assassinio di padre Tentorio, il missionario italiano del PIME ucciso il 17 ottobre del 2011 nelle Filippine. Nell'uccisione di padre Tentorio, il missionario italiano che è stato ucciso nelle Filippine nel 2011, sono implicati dei militari di Manila. Secondo il procuratore di Stato aggiunto Peter Hong del Dipartimento di Giustizia, l'omicidio sarebbe stato eseguito con la connivenza di membri dell'esercito. Il procuratore ha presentato una denuncia contro una dozzina di sospetti, inclusi miliziani governativi e 2 comandanti dell'esercito. La relazione dell'indagine del Dipartimento di Giustizia filippino ribalta una precedente versione dei fatti delle autorità di Manila, che avevano accusato 2 civili per l'uccisione del sacerdote. Padre Tentorio venne ucciso a colpi di pistola all'interno della residenza della parrocchia della Madre del Perpetuo Soccorso ad Arakan, nell'isola di Mindanao, subito dopo aver celebrato la messa. È stato ucciso per vecchi rancori suscitati dal lavoro che ha sempre fatto a favore della gente locale, aveva detto nel 2011 il fratello di padre Tentorio. Già nel 2003 il missionario del PIME era sfuggito a un tentativo di omicidio e si era salvato perché le persone della capanna dove si trovava lo avevano nascosto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla sfida di stasera a Stoccolma, la prima delle 2 partite con la Svezia per approdare ai Mondiali 2018. Qua si fermano le mie conoscenze sulla partita di stasera, Carlo, quindi per tutto il resto ci sei tu. Sì, va bene, perfetto. Allora, si chiama Friends Arena, lo stadio degli amici, quello di Solna dove giocherà appunto l'Italia questa sera, cercando la prima metà di Mondiale, speriamo, mettiamola così, contro la Svezia, playoff. Ovviamente partita da non sbagliare, e Ventura va con i senatori, va con, mettiamo l'usato sicuro. Ma tu sei sicuro. Ottimista, così una domanda? Beh, dobbiamo essere tutti ottimisti, perché te lo immagini un Mondiale senza l'Italia, che facciamo quest'estate? No, anch'io le guardo le partite dei Mondiali. Quindi, magari non dalla Russia, ma da Radio 24, però... comunque ai Mondiali l'Italia deve andare, non si accettano compromessi, non si accettano altre soluzioni. Poi approfittiamo anche per dire che lunedì la seguiremo in diretta. Sì, lunedì la seguiremo in diretta. I battiti della partita di ritorno a Milano, San Siro sarà tutto esaurito, tra l'altro. E si va con la formazione grosso modo annunciata almeno da ieri, dopo il forfait di Zaza, quindi è una squadra piuttosto anziana questa, ci sono molti giocatori, da Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Candreva, Parolo, De Rossi, tutti sopra i 30 anni. È l'ultimo mondiale per tutti questi, l'ultimo mondiale che cercano, quindi ci sarà una forte motivazione sicuramente. Te lo puoi immaginare, gente molto esperta. Davanti non ci sarà Zaza, che si è fatto male, andrà in tribuna, e dovrebbe giocare Belotti con Immobile, quindi Insigne in panchina. 20:45, Friends Arena, Solna. Grazie a Carlo Genta, naturalmente poi ne parlerete anche oggi pomeriggio in tutti i convocati, immagino bene. Noi ci fermiamo per qualche istante per sentire come sta andando sulle nostre strade. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Effetto giorno. Un sasso lanciato contro un'auto sfonda il parabrezza, una donna di 62 anni muore per arresto cardiaco, è successo ieri sera nel milanese. Città di nuovo in difficoltà per gli scioperi, ma non tutte. A Milano in realtà mezzi pubblici irregolari, a Roma fermi bus con un'adesione, secondo i sindacati di base, al 95%, cancellati molti voli. Dopo l'arresto di Roberto Spada, Ostia si prepara al corteo di domani. La lotta alla criminalità unisce tutti, twitta la sindaca Virginia Raggi. Intanto il giornalista racconta a Radio 24 i momenti dell'aggressione di martedì. Li vedevo sui balconi, sembravano scene tratte da un libro di Sciascia. Ora abbiamo una data, perfino un orario preciso. La Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea venerdì 29 marzo 2019 alle ore 23. Terremoto nel centro Italia. Entro la fine dell'anno, salvo imprevisti, contiamo di consegnare l'80% delle casette, assicura il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Ancora 2,3 milioni di tonnellate di macerie in strada. 24esima edizione di Orienta Giovani. Confindustria fa incontrare imprenditori e studenti che devono scegliere il percorso dopo le superiori. Sullo sfondo una disoccupazione giovanile che sfiora il 35% e un quinto delle imprese che non riesce a trovare i profili professionali di cui ha bisogno. E poi il calcio, ne abbiamo parlato poco fa con Carlo Genta. Stasera a Stoccolma la prima delle due sfide con la Svezia per la nostra qualificazione ai mondiali 2018. Ventura si dice ottimista, niente paura, ce la faremo. Queste dunque le notizie principali di oggi, una delle quali, come avete sentito, è quella degli scioperi, perché abbiamo sentito nel primo blocco ci sono stati dei disagi nelle città, ci sono ancora in realtà non in tutte le città. Livia Zancanera qui accanto a me ha seguito questa mattina questo tema, in realtà non sono disagi uguali in tutte le città, no? A Milano sembra tutto abbastanza regolare, a Roma molto meno. A Milano sembra tutto regolare, le città, diciamo così, dove la situazione è più critica sono, secondo quanto dicono gli stessi sindacati, Roma e Venezia, e quindi in queste ore... A Roma c'è tutta la questione dell'ATAC, quindi insomma questo ha influito sicuramente. E comunque quello di oggi è uno sciopero di venerdì, tanto per cambiare, che si aggiunge ad una lunga scia di scioperi il venerdì. Il Codacons parla di tredicesimo venerdì o comunque tredicesimo sciopero consecutivo a Roma dall'inizio dell'anno, quindi comunque c'è questo problema. Tanto che si comincia a ipotizzare una normativa che possa in qualche modo tutelare poi i cittadini. Sì, allora c'è in realtà un emendamento alla manovra, quindi disegno di legge di bilancio in discussione al Senato, che potrebbe limitare appunto i disagi legati alle frequenti, ormai frequenti proteste nel settore del trasporto. Il cosiddetto emendamento Sacconi, proposto quindi dall'ex ministro, che tra le altre cose prevede che singoli lavoratori comunichino in anticipo le adesioni. Non prevede solo questo, prevede altro, ma questo è uno dei punti principali. Intanto però al lavoro c'è anche la commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero, che vuole, perlomeno come soluzione temporanea, cercare di limitare il numero degli scioperi allungando l'intervallo tra uno e l'altro. Ovvio, questo sarebbe solo una soluzione temporanea nel caso da gennaio. Su questo tema abbiamo sentito proprio il presidente della commissione di garanzia, Giuseppe Santoro Passarelli. Noi siamo perfettamente consapevoli che c'è una reiterazione eccessiva di scioperi, tant'è vero che soprattutto nelle grandi città come Roma e Napoli, non parlo di Milano per esempio, si verificano spesso due scioperi al mese. Allora è evidente che questo problema è sentito non solo dalla commissione di garanzia, che sia chiaro, non ha come compito quello di eliminare gli scioperi, ma quello di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con l'esercizio dei diritti del trasporto, per esempio. E quindi da questo punto di vista siamo in continuo contatto sia con il ministro sia con il prefetto di Roma in questo caso, proprio perché ci sono state già 4 precettazioni che sono non di competenza della commissione, ma sono di competenza o del ministro quando lo sciopero ha carattere nazionale o del prefetto se ha carattere locale. E abbiamo concordato con loro che in questo caso non era opportuno precettare. Perché? Perché la precettazione è un provvedimento eccezionale e già era intervenuto sia per differire lo sciopero sia per ridurre lo sciopero, che era intervenuto già in 4 circostanze. Quindi adottare un'ulteriore precettazione presentava il rischio che poi veniva impugnata davanti al TAR e il TAR avrebbe potuto addirittura ritenere illegittima questa precettazione, perché, come ripeto, la precettazione è un provvedimento eccezionale. Dunque, se la precettazione non è una soluzione, quali possono essere le soluzioni? La precettazione può essere una soluzione, ma non è una soluzione che può ricorrente, perché è una soluzione eccezionale. Noi ci siamo sforzati, perché abbiamo detto già nella relazione che ho fatto in Parlamento che il problema è quello della eccessiva frammentazione sindacale, però si è visto che in questo scorcio di legislatura intervenire in via legislativa sulla rappresentatività sindacale ai fini dello sciopero non era il tempo maturo e quindi abbiamo dovuto noi della Commissione pensare a che cosa, come soluzione tampone naturalmente, non come soluzione permanente, come dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo a disposizione senza pensare appunto all'intervento del legislatore, perché non è nel nostro dominio. Allora abbiamo pensato di poter in qualche misura allungare i periodi di intervallo che intercorrono, devono intercorrere tra uno sciopero e l'altro. Oggi tra uno sciopero e l'altro devono intercorrere perlomeno 10 giorni. Se noi riusciamo ad allungare questo periodo di 15 a 15 giorni, a 18 giorni, evidentemente nell'arco del mese lo sciopero si riduce per una questione direi matematica. Ma questo è un provvedimento che richiede tempo, non è che dice battiamo la bacchetta magica e in 24 ore si arriva a questa soluzione. C'è anche un emendamento proposto dal ministro Sacconi per evitare il cosiddetto effetto annuncio. Di cosa si tratta? Che cos'è l'effetto annuncio? L'effetto annuncio è che quando si proclama uno sciopero e poi si revoca e quindi però ormai l'effetto, come si dice, come dice il termine, l'avere annunciato lo sciopero già ha determinato una situazione e quindi questo è l'effetto annuncio. Grazie dunque a Livia Zancaner per questo approfondimento sugli scioperi. Noi alziamo decisamente lo sguardo dalle cose di casa nostra, dai nostri scioperi dei mezzi, andiamo invece all'estero, in Libano, perché c'è un Libano sempre più in difficoltà dopo le dimissioni del premier Hariri. Dopo 5 mesi dall'embargo contro Qatar deciso da Riyadh e dalle monarchie del Golfo in funzione anti-iraniana, anche il piccolo Libano è divenuto una pedina nel sempre più teso confronto tra Arabia ed Iran per la leadership regionale. Hariri sabato ha motivato le sue dimissioni accusando l'Iran di pesanti ingerenze e dicendo perfino di temere per la sua vita. Hezbollah e il presidente libanese, ma anche diversi politici sunniti, ritengono che Hariri sia costretto contro la sua volontà a restare in Arabia e che le sue dimissioni siano state dettate da Riyadh per avere campo libero in Libano, dove gli Hezbollah, alleati di ferro dell'Iran, sono il potere forte. Cosa accadrà ora? Possibile che scattino sanzioni, che il Libano possa essere isolato come il Qatar. Arabia, Israele e Stati Uniti hanno ora un nemico in comune, l'Iran ed Hezbollah. Ieri il presidente francese Macron è volato a Riyadh per cercare di trovare una soluzione alla crisi, ma la situazione è molto tesa. Da tempo fonti militari israeliane ripetono: una nuova guerra contro Hezbollah non è più una questione di se, ma di quando. Manca solo un pretesto. Forse i sauditi lo stanno cercando. Roberto Bongiorni, Radio 24, il Sole 24 Ore. Non sono notizie di tensioni che si riaccendono in Medio Oriente. Domani l'inaugurazione, questa è davvero una buona notizia, l'inaugurazione del nuovo Louvre ad Abu Dhabi. Dopo 10 anni dalla firma dell'accordo tra gli Emirati Arabi Uniti e la Francia e dopo 4 anni dall'inizio dei lavori firmati da Jean Nouvel, il Louvre Abu Dhabi sabato prossimo inaugura. Il nuovo museo sarà un ponte tra le civiltà e cercherà di parlare al mondo arabo di tolleranza. Simbolo la cupola di acciaio e alluminio che protegge dalla luce i 55 edifici bianchi circondati dal mare sull'isola di Saidiat. Al centro l'Agorà, dove 2 opere di Jenny Holzer e Giuseppe Penone ci ricordano il dialogo tra culture sumeria accadiana e quello tra l'uomo e la natura. Valore dell'investimento oltre 1 miliardo, di cui oltre 500 milioni versati al Louvre per la cessione in esclusiva del brand e per il prestito di 300 opere per un periodo di 10 anni e 6 mesi, proveniente dai 13 musei francesi, Louvre compreso. Il percorso attraverso le 12 sale narra la storia della civilizzazione, mettendo in dialogo le diverse culture sui temi fondamentali della storia dell'uomo: nascita, morte, potere, religioni, viaggi e commerci, scoperte, sino al Rinascimento, dove l'arte francese ha la meglio. Il secondo Novecento e la contemporaneità ci riportano alla società fluida e alla globalizzazione. Qui guerra e terrorismo meravigliosamente scompaiono e si invita al dialogo. Biglietto 14 euro. Per il 2020 sono attesi ad Abu Dhabi più di 8 milioni di persone, il doppio degli attuali. Marilena Pirrelli, Radio 24, il Sole 24 Ore, Abu Dhabi. E noi ci fermiamo per qualche istante, poi la borsa. Effetto giorno. Un sasso viene lanciato contro un'auto e sfonda il parabrezza. Una donna di 62 anni muore per arresto cardiaco. È successo ieri sera nel Milanese. Città di nuovo in difficoltà per gli scioperi, ma non tutte. A Milano mezzi pubblici irregolari, a Roma invece fermi bus con un'adesione, secondo i sindacati di base, al 95% cancellati. Molti voli. Dopo l'arresto di Roberto Spada, Ostia si prepara al corteo di domani. La lotta alla criminalità unisce tutti, twitta la sindaca Virginia Raggi. Intanto il giornalista di Nemo racconta a Radio 24 i momenti dell'aggressione di martedì. Li vedevo sui balconi, alla nostra richiesta di aiuto, loro ci dicevano: ti sta bene, non tornare più. Ora abbiamo una data, perfino un orario preciso. La Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea venerdì 29 marzo 2019 alle ore 23. Il terremoto del centro Italia, entro la fine dell'anno, salvo imprevisti, contiamo di consegnare l'80% delle casette, assicura il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, ancora 2,3 milioni di tonnellate di macerie in strada. E poi il calcio, stasera a Stoccolma la prima delle due sfide con la Svezia per la nostra qualificazione mondiali 2018, Ventura si dice ottimista, niente paura, ce la faremo. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta Effetto Giorno. 24esima edizione di Orienta Giovani, la manifestazione che Confindustria organizza ogni anno per far incontrare imprenditori e studenti con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni all'industria manifatturiera. Tema di quest'anno: ITS e lauree duali, ed è di questo che parliamo con Giovanni Brugnoli, vicepresidente Confindustria per il capitale umano. Buongiorno Brugnoli. Buongiorno a voi. Allora, il problema è sempre lo stesso, lo stiamo raccontando da anni. A fronte di un tasso di disoccupazione giovanile che sfiora il 35% e di una quota di giovani NEET, sono quelli che non lavorano, non sono inseriti in alcun percorso di formazione, quota vicina al 25%, oltre un quinto delle imprese non riesce a trovare i profili professionali di cui ha bisogno. Un'assurdità questa del nostro paese. Sì, è un'assurdità incomprensibile, perché noi siamo ancora il secondo paese manifatturiero d'Europa, uno dei primi nel mondo, sappiamo fare dei prodotti di eccellenza e in questo momento le nostre imprese richiedono un capitale umano altamente qualificato per mantenere questo livello di qualità dei nostri prodotti. Il mismatch è veramente importante, perché abbiamo calcolato che nei prossimi 5 anni ci saranno più di 200.000 richieste da parte delle imprese di figure altamente professionalizzate. Quindi il nostro è un messaggio di propensione a vedere che tipo di industria c'è sui propri territori, proprio per vedere una reale opportunità di occupazione. Tema di quest'anno, lo dicevamo, gli ITS, le lauree duali. Gli ITS sono questo strumento così ancora poco conosciuto in Italia e che invece assicura una buona occupazione, anzi direi un'ottima occupazione. Quindi anche in questo senso la manifestazione di oggi. Sì, abbiamo voluto porre l'attenzione proprio sugli ITS, che sono quelle scuole che fanno e formano i super periti, perché è un percorso post diploma, diciamo di scuola superiore, e proprio forma quegli super periti che trovano piena occupazione. È evidente che stiamo parlando ancora di numeri sottili rispetto al nostro competitor tedesco, perché in Italia sono circa 8.500 le persone che frequentano gli ITS contro i 900.000 delle facoscule tedesche, a pari numero di iscritti all'università, 1.750.000 i tedeschi contro 1.670.000 italiani. Quindi a noi manca quella fascia di super periti, super tecnici, che sono quelle figure che proprio le nostre imprese manifatturiere richiedono. E quindi noi lanciamo questo appello di orientarsi a una formazione che crei una propria occupabilità. E quindi le nostre imprese richiedono questo tipo di profili in settori trasversali, che vanno dalla chimica al tessile, alla meccanica, all'ICT. Quindi non è solo un settore manifatturiero, ma sono più settori. Tra l'altro, insomma, non è di certo un invito a non andare all'università ai ragazzi, però insomma non tutti devono andare all'università, devono almeno conoscere, questo forse è il senso dell'Orienta Giovane di oggi, devono conoscere qual è l'alternativa, un'alternativa per formarsi, per diventare quei super tecnici che tra l'altro l'Italia aveva un tempo. assolutamente, che ha fatto grande la nostra industria, ma il tema dell'università, noi siamo la Cenerentola per quanto riguarda il numero di laureati, quindi è un numero che dobbiamo invertire la tendenza. È evidente che ci sono aspettative e diciamo necessità diverse anche da parte dei ragazzi, e può essere un diciamo uno slancio proprio dei ragazzi frequentare o gli ITS o le lauree STEM, che sono quelle più ricercate, proprio per trovare una piena occupazione nel proprio futuro. Grazie, grazie a Giovanni Brugnoli, vicepresidente Confindustria per il capitale umano, che questa mattina è presente ad Orienta Giovani, la manifestazione di Confindustria per far incontrare imprenditori e studenti. A proposito di scuola, qualche consiglio per gli studenti chiamati a scegliere il loro percorso dopo le superiori lo abbiamo appena dato. Vi ricordo invece che sul nostro sito trovate tutte le tabelle di Eduscopio 2017. Stiamo parlando in questo caso dei ragazzi di terza media che invece devono scegliere cosa fare alle superiori. Ebbene, Eduscopio ha esaminato le scuole italiane dal punto di vista dell'esito universitario al primo anno dei diplomati e dal punto di vista del lavoro per chi invece all'università ha scelto di non andare. Quindi insomma potete andare sul nostro sito, scegliervi la città, scegliervi la scuola e vedere qual è la migliore vicina a casa vostra. Sono qua con Marta Cagnola. Un minuto, perché abbiamo un'importante novità questa mattina. Si è fatto risentire Fabrizio Frizzi ed insomma una buona notizia. Beh, una buona notizia, eravamo tutti sì, un po' in pensiero. Sì, sì, sì. Due ore fa su Facebook ha scritto: cari amici, sono felice di potervi scrivere per dirvi che combatto per riprendermi. Poi ha scritto insomma una serie di ringraziamenti, ha ringraziato l'ospedale, ha scritto appunto, ha ringraziato i medici dell'Umberto I, come ha detto, che mi hanno ripreso per i capelli, i medici del Sant'Andrea, che mi hanno rimesso in piedi e rapidamente sono stati capaci di capire da cosa il guaio era stato generato. Quindi questo rimesso in piedi è di buon auspicio. Vuol meno dire male, che perché Fabrizio erano giorni Frizzi... non si era saputo più nulla praticamente. No, non si era saputo più nulla, anzi al momento si parlava di condizioni molto gravi, poi la RAI aveva minimizzato con un comunicato. Insomma, pare che si stia riprendendo, intanto lo sta sostituendo Carlo Conti, che lui definisce in questo messaggio suo fratello. Allora, tanti auguri a Fabrizio Frizzi, ci fermiamo per sentire Strade in diretta.